la amministrazione che ho qua promette per attaccare il tubo per spegnere il televisore. Troverà lì attaccati, ma non a, proprio si prova frontale, proprio sia con lineare senza e non ha dato mai un problema la verità, sembra strano comunque. Forse che sia anche dipende anche dal televisore, non lo so, comunque non è andato mai un problema la verità, e per quello che lo stavo dicendo. Papà, ma la fonte è una scarica in aria, questa scarica in verticale, hai capito il segnale, è diverso. Sì, questo ce l'ho passato, ha ragione, la diversa antenna, sì. E se volevo dire, ma se hai, diciamo, questa antenna magnetica nel tuo terrazzo, poi benissimo mettere un'altra antenna, ancora adesso, anche come quella che ho io, più lungo, questa energia, un mezzo, puoi bene, puoi benissimo mettere anche questa, Chiaro, ma c'avevo la storm prima, però tolta. Allora, io non ce l'ho nel terrazzo, io ce l'ho nella porta finestra, ce l'ho, hai capito? Della camera da letto. Ecco, ho capito, della camera da letto. Poi giustamente, questa antenna va esternamente, non internamente. Fuori è l'antenna. Perfetto, ok, è fuori. Dunque, siccome il modello che tu vive è senza radiali, dunque spazio non è che ne abbia bisogno come un'antenna con i radiali, potrebbe benissimo metterla per un'antenna che ho io. Ma non la posso mettere perché c'è un inquilino che c'è la cosa confinante, se no l'avrei messa. Se avrebbe stato a secondo piano, avrei messo un'antenna più forte, molto più forte. Guarda, ti faccio un esempio stupido, è da non credere, però l'ho visto con i miei occhi. Tanto tempo fa, oggi c'era un amico che modulava, non so se l'ha mai sentito, si chiamava Pino Silvestro lui. Di nome faceva Ivan, adesso ha mollato da tanti anni. Fatto sta che lui aveva un'antenna dentro la camera sua, è una zona, diciamo, quasi al centro del paese, circondata da case, e arrivava benissimo anche ai lì, per farti capire che era un buco l'antenna era in casa, e arrivava anche ai lì all'epoca. Non lo so, dipende. Io qua c'è tutto libero e arrivo un po' dappertutto, se non ho problemi. Antonino! Ehi, dimmi tutto! Guarda adesso come ti sta arrivando, vedi un po' come sta arrivando lì a Ossi. Adesso il segnale, la verità, è diventato più leggermente più forte, la verità. Diciamo se almeno una radio di due buona. Buona, tranquilla, molto più comprensibile. Sentiamo sempre lo stesso. Però è migliorato un pochino, è migliorato, sì. Perché ho sollevato un po' il palo adesso, dai. Dici, ho sollevato un po' il palo e vedevo un po'. E a te, Arto, come ti arrivo? Sì, molto meglio, ho aumentato di modulazione. Ma ce l'hai il numero mio? Giuseppe. Numero tuo? Il cellulare? Mi sembra di averlo, però... non lo so, adesso dovremmo cercare nell'agenda. Cappa, se facevo uno studio ti chiamavo io. Il mio numero ce l'hai, sì. No, è quello che ho perso, cazzarola. Vabbè, te lo ridò, figati un carta e penna e te lo segni. Questa me lo dai. Prendi la carta e la penna a tu. Se non ti crea problemi, se no te ne do uno io e via. Se non ti crea problemi, va bene. Ma a me non me ne crea problemi, tu lo sai che no, non me ne crea. Dunque, se c'hai la carta della pena, te lo do. Giuseppe. Poi? Vai, dimmelo. 348. così, la verità stava anche bene oggi perché c'era pochissima gente, la verità, e abbiamo fatto un giro così alla fiera, siamo riposati un pochettino stasera dopo pranzo e poi andiamo a città mercata, ma in particolare alla fine. Capa, ma dove era? Proclamato, No, no, no, portiamo, città mercata siamo andati. Dove? Mi siamo andati a città mercata stasera, non siamo andati a fare, non ce l'abbiamo fatta oggi. Ah, vabbè, a fare un giro lì a città mercata, vabbè, cosa c'era? E ma c'era pochissima gente, non credersi, stranamente, che sempre in prima la domenica con la scusa che la gente si prende il fresco lì, vedete c'era pochissima gente, ma veramente stava bene, non c'era tutte quelle persone che ti affogano e ti fanno mancare l'aria, no, era molto tranquillo. Capo, ho capito, con questo caldo la gente preferiva andarsene al mare e tutto quanto, hai capito? Quello sì. Ti volevo dire, ma hai sentito la proposta, diciamo, che sta organizzando Grote? Sì, già l'ho sentito, di aprire la cosa del CB. Io per me, io gli ho dato l'ok. Se vogliamo organizzare di fare questa cosa, per me non ce n'è problema. Sì, anche la verità sono d'accordo. Sono d'accordo sempre con il motivo, in modo da cercare di ripopolare, diciamo, la 27, ecco, ripeto, sempre con persone selezionate, dai, a mettere gente nuova, perché alla fin fine già è abbastanza divertente. Adesso la verità, ho preso un libro, una rivista che si chiama Circo Elettronica, Radio Amatori e Opistica CB, e ci sono tantissimi modi per costruirsi delle antenne in casa, proprio con due spiccioli contatti, tarate perfettamente funzionanti, senza fare via spendere un sacco di soldi. Dunque alla fine comunica e ti diverti, ed è un bel hobby alla fine, ecco. E capa, com'è che è uscito adesso, che è scelto più forte, Anto? Chi, io? Ah, Antonè, sta uscendo molto più forte adesso. Perché ho tolto l'eco e ho aumentato il mic gain, che era a metà. Ah, ecco, allora ecco perché ti sento più forte. Adesso mi arrivi una radio di 5 e il segnale 7, No, già, diciamo, ho un'antenna di quella 2 soldi, ma già funziona bene. Beh, il fatto sta, per dire, ho provato a misurare l'uscita di questo Galaxy, ma non esce con i 10 ampere, esce con 3 ampere. Non è un'uscita di 10, come dicono tutti. No, già sta uscendo bene, adesso sta arrivando abbastanza bene, ti riesco a tirare molto più a fondo, capito? Siccome c'è uno strumento che ho provato, esce con 3 watt, esce, non è vero che esce con 10. Sì, quando si disegna il rometro. Che c'ha bene, Antonio? Qual è la picchi di modulazione che non sei uscita? Oh, eccoci qua. Allora, siccome ho uno strumento esterno per misurare l'uscita dei watt e le stazionarie, mi indica 3 watt, né più né meno, anche girando, per dire, l'SR Power a manetta, sono 3 watt, non esce con 10. Ma tu devi mettere il rometro per saperlo. Io ho il watt meter, e dunque è la stessa cosa. No. si incontrano? Perché questo mi indica il fase d'uscita e le stazionarie. E qui mi dica 3, come mi indica 3 per dire dal 44 che ho, per dire, è la stessa infatti, sono tutti e due uguali identici. No, è possibile, no. Pure così, vediamo che ti dica, questo qua mi indica 3 watt. 3 watt, diciamo, girando la manetta il pomello della regolazione dell'uscita, 3 watt, ma 10 qua non me li segna assolutamente, ma neanche 5, proprio 3, lì punto e basta. E per quello te lo stavo dicendo. No, no, stai sbagliando Antonio, ci vuole un orometro di serio per misurare i watt anche. Non si misurano così. Cosa vuoi che ti dica? Non so se lo conosci questo ZG modello 103, piccolino, quanto un pacco di sfoglio, appena, no, quanto un pacco di sigarette grande, dai. E mi indica l'uscita delle stazionarie dei FAT. Le stazionarie che mi indica questo ZG modello 103, me le indica uguale identica al Galaxy, perché anche il Galaxy c'ha, indica le stazionarie pure no. Quello hanno tutti e due la stessa misurazione, sono uscendo con uno e uno, né più né meno. Tre fatto, le fatte invece questo mi indica 3, questo ZG mi indica 3 fatte, a manetta è. Tra una cosa, le stazionarie cosa dice? Le stazionarie mi dice 1 e 1 questo ZG e 1 e 1 mi indica anche il Galaxy, perché anche il Galaxy ce l'hai incorporato. Non so cosa dirti Antonio. Ti sto dicendo, perché tutti dicono che escono, che esce con 10 watt, ma non, a me non mi risulta qua in questa apparecchiatura. Stai attento che sono un pochettino fasulli, vuol dire, ce l'ho avuto pure io. Mi ha creato problemi, proprio quel modello lì. Pure guarda, la stessa misurazione me lo dà. Adesso posso fare anche per dire adesso una prova col Galaxy. Tac, e mi indica anche qua 1 e 1. Stazionaria, va bene così. Sì, esatto, adesso ho fatto la misurazione in questo momento col Galaxy 1 e 1. E 1 e 1 mi indica questo modello 103, no? Per dire, poi ripeto, perché poi ti indica anche che puoi caricare al massimo 150 watt, puoi caricare, ti indica, però qua mi indica 3, né più né meno, non lo so, comunque, già va bene lo stesso. Chiaro. 1 e 1, magari ti segna bene i cosi. Sensazionale, ma infatti no. Forse mi sembra un po' strana questa cosa. Non so cosa dirti, tutto lì. Cioè questo modello l'ho provato e via, niente di particolare, però. Qua invece nel caso in questo momento mi stai indicando 10 a metà dell'SR Power che regola, vedi anche alla fine un po' sballato, vedi un po' si è aumentato adesso, o così se cambia, oppure così. Così cambia. In questo momento diciamo è a zero e mi stai indicando quasi un watt, così a metà e così è a manetta. No, cambia Antonio, tranquillo. Non lo so, adesso in questo momento lo sto mettendo a metà, dai. Ma quando lo chiude a zero sei 7. Come se cambia, no Giuseppe? Beh, con me, perché a toccante mi hanno fatto quel passaggio, è sceso la radio a 3, segnale 3, e poi è salito nuovamente a 7. Sono io, hai fatto? Dimmi. Che avvocati, come hanno fatto quel passaggio là, e il segnale 3, radio 3, come fa, dopo come è alzato quella cosa là, si è ritornato il segnale 7, capito, la radio in 5. Un'evoluzione ce l'ha, però stranamente questo qua mi dica totalmente diverso, non so il perché alla fine, e via. Comunque fatto sta, oggi non ho nessuno ne aveva di modulare, siamo gli unici tre superstiti. Come dice il provvedo, mezzo mare accompagnato, meglio E ogni tanto ci vuole questo problema, perché molta gente già se lo dimentica. Il discorso è quello. Vedo solo che è male accompagnato, è come è il discorso quando va a pescare. Ma da solo, vedo solo che è male accompagnato, perché gli altri, cazzo, secondo me, ti tirano e poi stanno lì a fracassarti, scusando la frase, con la questione là, capito? Quello sì, E domani al lavoro? No. Io non sono molto d'accordo di quello che stava parlando poco fa. Di che cosa tu? Dell'associazione, cosa? Da? L'associazione, queste cose. Ho preso già una capita Antonello, te lo volevo dire. Quindi tra Antonello. No, perché io lo spero davvero positiva, almeno per dare un po' di vita, diciamo, agli apparati, tutto lì. E domani a lavoro? Capa. Devo usare Antonello, trovo sono comprendi in due parole. Gli occhi veglienti che non merita manco uno spicciolo. Tutto qua. Io non lo metto in dubbio, guarda, che c'è gente che lo vuole due soldi, lo so. Ma non per quello uno non deve fare le cose che gli piacciono, che lo si sente farle, anche se la gente lo vuole due soldi. Uno che secondo me, per il modo di vedere, ha un po' di zucca in testa, un po' anche di sale, mettici tutto quello che vuoi. Se ti piace qualcosa, pure degli altri, sinceramente, io me li frego in culo, lo dico chiaro e tondo. Io mi sento le cose che, secondo me, mi fanno piacere, mi fanno andare avanti, poi degli altri vaffanculo, chi se ne frega. Io lo vedo positivo tutto lì e mi piacerebbe, guarda, la verità, far conoscere che ha parlato a molti ragazzi che manco sanno cosa è. Tutto lì, sempre per stare in compagnia, né più né meno. Ma è vero che le persone sono già abbastanza per i fatti suoi, richiuse in casa con la paura di uscire, ecco. Io così non ci voglio diventare. No, io pure domani, vengo se posso vedere che assolvo, non c'è problema, no, non è quello il problema. Non è in quel punto che voglio arrivare, capito Antonio? Solo che io ti dico una cosa, che sono un pochettino sempre scettico, sai perché? Te lo spiego adesso. Perché sono stato troppe volte deluso dalla gente, ecco perché no. Non mi fido più di nessuno. Lo stesso, sono anch'io così, lo stesso, anch'io ho avuto molte delusioni e mi sono scese le braccia, per come parlare della gente e per le cose che fanno. E sono rimasto deluso ancora lo stesso, forse non so neanche se me ne andrà mai questa delusione, perché ne ho avuto anch'io esperienze veramente da parte delle persone stupide che non mi sarei mai aspettato. Ripeto, io non sono perfetto, attenzione, perché anch'io ho i miei difetti, però ho sempre rispettato la verità, nel mio mondo ho sempre rispettato, non ho mai offeso a nessuno, mai preso per il culo e non ho mai approfittato per i miei interessi. Quello senza ombra di dubbio. Io rispetto, voglio essere rispettato, poi anche io un po' come tutti gli altri quando mi girano le palle mi difendo e mi difendo anche veramente bene, non per vantarmi, penso un po' come tutti. Ma non per questo, se la gente è stronza, io non posso fare quello che mi sento di fare e mi piace. Dunque del resto, per il mio modo di vedere, vaffanculo alle persone stronze, ecco. Sì, no, Antonello, non è quello il problema. Ognuno la pensa come vuole, ma io sono sempre un po' così, insomma, perché ho avuto troppe esperienze che non mi sono piaciute, quindi sono sempre un po' così, è capito? Tutto qua il discorso. Ognuno la può pensare come vuole, c'è cioè, da pulire come vuole, eccetera, eccetera. Però io sono così, perché sono rimasto male un bel po', capito? Tutto qua il discorso. pienamente d'accordo, ma non per quello non deve andare avanti, prima o poi le persone giuste si trovano, noi siamo in tanti, non credo che tutte le persone siano stronze, ecco, questo è il mio modo di vedere, è quello che io penso, ripeto anch'io per esperienze vissute, dunque non per quello non deve andare avanti, ma andare a ricercare le persone, spero di trovare quelle giuste, tutto lì, io, loro aiutano a me e aiuto a loro, né più né meno. No, andare avanti sì, per carità, se non sarei andato avanti avrei chiuso chissà da quanto tempo, è capito, avrei chiuso la trasmissione, però c'è sempre la dissidenza, capito Antonio? Sì, sì, sì, quella sempre ci vuole, per i tempi che corrono, se non sono anch'io come te, io valuto e vedo un po' la situazione, se è giusta e sincera buono, se no ci ho provato, pazienza, troverò un'altra soluzione ancora per andare avanti, tutto lì, solo quel discorso, non voglio fare la morale, ripeto, sto dicendo solamente quello che penso, tutto lì. Raga, questo l'ho detto, vedete come l'ha preso. Sì, a me così però sempre, cioè gli amici, quelli che ci tendiamo sono in due, sono che proprio andiamo d'accordo, eccetera, eccetera, proprio alla grande, forse anche tre, dai, sono, ma gli altri no, c'è sempre un punto di riguardo, capito? Sì, quello sempre, per carità. Lei va bene. Avanti il signorino, piccino picciò che è messo da parte. Sì, è quello il discorso. Ognuno la pensa con la testa sua e fa bene. E ognuno, diciamo, fa la sede e fa per tre. Ognuno si lava la faccia con l'acqua del suo mulino, dunque poi gli altri non gliene fonte proprio nulla, è preso. Sì, se non lo metto in dubbio, ho giusto, non c'è troppo, è luce. Hai capito, caro Antonello, la vita è quella che è. Poi, se uno, io diciamo che quando sono entrato in frequenza mi sono sempre comportato bene, ho rispettato tutti quanti e pretendo di avere io rispetto e voglio rispetto, la legge è quella. Poi, se non vuoi parlare con me, non è che ne fai uno il cavolo, ne fai due, se no fate una multa, ho preso e ho chiuso baracchino e non ho acceso per mesi, dunque è lì. E vabbè, guarda, fatto sta che adesso almeno in questo caso siamo tutti e tre amici, chi se ne frega, una chiacchierata ce la stiamo facendo. Meno male, un po' ci stiamo sfogando, dai, anche per affrontare domani una lunga giornata, dunque è già abbastanza positiva, dai, scambiarci le nostre idee. Ultimamente da qualche anno uso un altro tipo di baracchino. scappa, è popolino, scatta, bobo, cosa non da ricco, parte indiano. Ma non c'è una parte del culo, c'è anche un culo, che è grosso, ma di che non mi lo va a testa, che è grosso. Scappa. Cosa vuoi fare? Non mi intendi, no, Giuseppe. Oh Luca! Hai capito? Stavamo parlando della frequenza, come i comportamenti, e ne sai qualcosa anche tu, vero Luca? Ci guardiamo queste cose, è meglio che ognuno si guardi le proprie cose, ecco, le proprie tasche, come lo volete chiamare. Ah, ma non ha putti, prima mi incazzavo, c'è come di parola, ma non ha putti nuda, non ne vale la pena, ecco, non, ormai si sa. Comunque, importantisti, quelli ci saranno sempre, non moriranno mai, perciò conviene. Chiude, però me lo io prendo, altre cose da fare e me ne vado, come faccio sempre. Cos'è cos'è che fa girare le palle? Quando un importantista che modula? Vabbè, purtroppo gli saranno sempre. Tu, esistono sempre, ci sono gli stranogatti, esistono i ladri, sempre, quelli ci saranno sempre. E dopo che esistono ancora un piccolino da quarantino, e via. Avanti, cos'è? Ma non è adesso, tu, che con Luca ci conosciamo, noi con Luca ci conosciamo una da vecchia data e abbiamo fatto frequenze a rimanere anche alle 5 e mezza di mattina, alle 6, abbiamo fatto nottate sull'apparato e sentire gente a rompere le scatole, alla fine c'ha ragione Luca, prendi. C'è qualcos'altro da fare, prendi tu e chiudere, il discorso è quello. Allora, il problema sta, una volta c'era una portante a tu, no? Mio fratello in macchina, questo lo avevo detto io, no, lui sotto, tu conta, lui sotto, beh, non riusciva a passare la portante, da lì tu tutto, questa portante non sono riuscito a trovarla, è nata a monte, non era di cavando bene. Lo posso immaginare. Capo di classe in cui si può prendere. Ma è importante avvicinare, lui stava passando le sue da me, neanche mio fratello era sotto casa. Pensa tu. Che te l'hanno messa a breve distanza, abbiamo sparato al minimo un chilo qua. Ma se trovi sì, sotto casa è impossibile, lei ci vedrà sotto casa, no, riusciamo a passare. Che cazzo. E che te l'hanno proprio sparato tutti addosso, il capito. E qualcuno che ti ha sparato tutta la potenza. Aspetta un attimino, scusa, aspetta. Ma io dico, cacchio, così non so se sia. Ok. Ma dico, non so se sia, aspetta un attimino. Aspetta. Ok. Ma non riuscivo a passare mio fratello, è una cosa impressionante, è una cosa impressionante. Cioè, tutto un... hanno girato in macchina, non l'hanno trovato. 30 PL, vicino al ponte nuovo, a fondo scala. Scusa un attimo, ma come l'hai fatto l'apparato? Adesso sento molto meglio, c'è già fatto un altro gruppo. Questo qua è un altro, è un abbasso, è meno di uno. Si abbasso. Vedi, non mi senti più, si abbasso. E purtroppo anch'io non è forte, non ci posso fare niente, ma non che arriva il processore, aspetta, dai, se vedi che disturba, va meglio così adesso. Oh, caro, adesso sì che sei di lusso. Perché no, sono basso, ecco perché, è normale, no? È normale, mi ascolti fortissimo a me. Ah, posso fare quella cosa incredibile. Fate 40 in 40, chi è l'altro? Ma chi vuole la volta? Riprendi tu, Antonello, vai, stai dicendo? Niente, che stai parlando troppo adesso, Si stai crepando la colonnina, cazzo, non fanno neanche a meno di uno ogni volta che muovo di giù, basta! È basso, più di uno posso abbassare. Oh, dillo tu, Antonello, che non sto qua così la parecchio, non posso abbassare. Non ho fatto il processore, guarda. Così è il processore, inserito. E come dire senza processore, vai. È un pochettino meglio, però sei sempre a palla, va bene, non posso andare fuori di niente, vai, vai, vai. Ma state parlando di noi, si comprare una volta. Chi è l'altro? Giuseppe, tu sei? Io ho detto che io ti sento benissimo. Ah, tu vedi altro. Faccio, vabbè, io ho attenuato come segnale, erano altri più bassi. Adesso ho fatto l'attenuatore. E gli ho fatto i passaggi, con l'altro ho fatto il forte. E il microfono anche, come si chiama? Bah, Antonio, hai capito, il microfono che è molto, molto prepotente. Io però, cioè, secondo me gli mando in saturazione alla radio. Allora, perché? Perché voi andate più bassi, è normale che io la lui arrivo molto più forte e allora, lui si deve regolare col volume, capito? Capito. Lo so, io ti sento benissimo qua, però a toccare il calice, non si sa mai che molte volte porta... O lo metto al centro. Aspetta. Aspetta un attimino. Aspetta. Guarda adesso, Antonio, va bene. Gidua. Aspetta un attimino, vediamo un po'. No, adesso è... c'è anche il piatto l'accesa a uno, potrebbe aumentarlo perché se mi fulmina, no, quindi non so cosa fare, va bene, vuoi dire tu? Io ti sento bene, non ho problemi. Giuseppe, come lo sente? Ma abbastanza forte, cazzo, mi sta spaccando le orecchie, Luca, cazzo, mi sta arrivando a fondo scala. Voi... lavorare, dunque non ne ho problemi, sembra andato a dormire. certo, beh, potresti chiedere magari qualche panificio, via Padanietta, non so, mi parla dell'esperienza che hai, se hai, se hai qualche qualifica, no? E lì cercano gente qualificata, gente che sa lavorare, oppure magari a consegnare pane, no? Chi su via, io ti aspettano due chiamate, ancora nulla, speriamo bene, speriamo l'altra che è molto molto meglio, purtroppo sto chiedendo ma non è nulla, ma non è arrivato in cantiere così, ma questo non lo fa, ma non lo vale, non c'è niente, non c'è nulla, nulla. Dovrei sapere come fa la gente a campare, porca miseria. Io ho fatto mobiliere, ho fatto magazziniere, ho lavorato in un caseificio, ho lavorato nei taceretti a Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, sto facendo il panettiere, poi ho fatto anche 7 mesi di manovale in Donatino, meno male un po' di lavoro che ho fatto, è la verità, sto facendo il panettiere. Diciamo a puntare, prendere il pane sistemato, che poi non è pane, diciamo, normale tutti i giorni. Sì, lo c'è. Dove sono io quando il pane cucchiavo con l'olio di libertà. Io ho fatto tutto tranne che preparare il pasto in quella panetteria, perché il pane è molto in fretta, Dunque io faccio tutto da impacchettare, a mettere nelle scatole, a preparare le pedane, preparare il pane, preparare l'olio, mettere il sale, etichettare, pulire, la pane intera, tutto, non c'è problema per quello. E si fa quel tipo di pane lì. Io la vendavo un sacco di curriculum a Sassa, arriva tutti i nipoti, tranne i panificio adesso. E non ha chiamato mai nessuno. Non ti capisco, Antone. Cosa ti capisco? Purtroppo è un casino che non è un ego. Ascolta, aveva fatto magazzini a Sassari, no? Sì, dove lavoravo io nei negozi di mobili. Facevo anche il magazziniere, preparavo la merce, la sistemavo, spedivo i resi con le molle pronte, caricavo, consegnavo, impiancavo, preparavo l'esposizione dei negozi, era tutto fare. E facevo anche la vita, guidavo sempre. Poi ho preso anche l'accino, preso per usare i mezzi d'opera, sai, anche per lavorare nei cantieri chiusi, nella strada sciccata, per dire, anche lì ho preso l'accino, mai chiamato. Migliaia, se aspetta gli altri, ui, no, per carità, ma poi tutti promettono, con promesse, no, lasciamo perdere, è meglio... E meglio guarda, se io dico una cosa, cioè, sicuro no, ma se mai mi chiedo, posso chiedere, poi dico no, ma non mi serve, ma ti viene, ti prova, ti chiamo, ma poi, ma lasciamo prendere, prima la licenza media, facciamo la licenza media, ma tu la patente, se poi la patente, guarda, c'è come fa entrare, anche portare il nome, no, quello che è, va bene, per la patente, ma chiamando. Così purtroppo è uno schifo, veramente guarda, uno schifo, io non capisco come fanno le persone a campare, sinceramente, tutti in macchina, tutti ben vestiti, in città mercati, io sono andato a fare il giro, ma non ho comprato assolutamente niente, attenzione. Non mi sono fatto fregare di questi colori che mettono la porta per invogliarti a comprare. Non ho preso nulla, però vedo che molta gente è ben vestita, ha delle belle macchine, comprano. Io vorrei sapere che lavoro fanno qui. Non so, ma che magazziniere pure io, sono fortunato lì a Domingos. E c'è anche il tuo paese, più di uno, adesso non mi ricordo i nomi. Un magazziniere che lo diceva Andrea, mi sembra. Adesso non mi ricordo, la mia di età. Ho avuto una 42, forse di più, ma se non mi ricordo, ho detto, è una malla. Ci ho fatto un anno lì, quindi ho detto, come se è al volo? C'ho delle domande a scegliere, e ora sono fatto lì per un anno. Prendevo 800.000 lire al mese, prima lavoravo 800.000 lire pulito qua pure. Quattro ore qua. Come quattro ore entrato? Penso al tiro che mi accetto io. Che vado cucciato a piccolino. Paolo. Come quattro nello. Di tutto? Ah, mi intendete. E io ti sento, cioè io sto manovrando sempre qua, mentre burlo. E a volte mi cade la porta dalle mani perché sto facendo un calco. Ma non puoi fare un po' di modulazione? Che è come la prima, che ti senti un po' bene. Adesso? No, le chiche è a manetta. Ah ecco, sì, adesso c'è a manetta, sì, era a metà. Ah, va, sei tu. E adesso che sto manovrando, stiamo dopo l'apparecchiatura, stiamo dopo dalla 68, sto mettendo il cavo, così lo provo a vedere. Ah, va, la 68 è buono. Io per esempio non ne tocco mai di meccanica, sempre a manetta lo metto, perché devo avere una buona efficienza di modulazione. E quello sì, lo diminuisco a volte perché quando inserisco l'eco, diciamo, è troppo accentuato, no? Dunque lo regolo da lì. Ciao papà. Beh, attaccato là, questo baracchino. E sto fermando il filo. Aspetta, lo sto sbucciando. Ciao. E sto sbucciando il filo, no? Per collegarlo all'alimentatore. Questo qua ha fatto mio fratello che quando lavorava fuori l'anno scorso l'ha comprato a 80 euro, dice, 80 euro, sì. Su internet costa 250 questo gala, questo, questo Alan 68, l'ho trovato a 80 euro in offerta, e invece su internet lo trovi a 250. Ed è nuovo. Allora, preferisco più cose, preferisco prepararsi il canale, per esempio, no? Ho fatto 34 canali e lo posso anche modificare, la verità. No, io la stessa cosa avrei voluto, il MIDI all'8001. Allora, per l'apparecchio. E quello ci può modificare, sì. No, ma cosa c'è? Quello normale c'hai, Antonio? Sì. Allora 68S, 34 canali, sì. Dico, non è il modello BSX, no? No, è 68S. Proprio quello normale. Ok, è uscito un modello che è così. Preferisco più il 48, la verità. Però non quello normale, che per carità, quello è così. È un buon baracchino, modula bene cosa, ma non si può tenere a casa perché prende troppi battimenti, troppi colpi. Però l'altro modello che è uscito, quello lì è veramente buono, va bene. Breakers, ah, penso Breakers, buonasera. E che sei? Amelia, buonasera. Ah, tu, buonasera. Come era 48 e sono uguali, solo che uno è fatto con la tecnologia nuova e l'altro è vecchio, però piglia tanti di chi si colpi, è un buon baracchino, modula bene, prende tanti di quei colpi, caso che è una cosa micidiale. Avanti Massimiliano. Ho capito, ho capito, ma no, a livello di ghizzo, però non ti credi, no? Ti faccio la nota. No, hai provato bene. Io ho provato, abbiamo provato quello di Palmeglio, BSX modificato, piglia le matte cicolte, a chi era di Fisini. No, è possibile. Ma se non è possibile, se te lo sto dicendo. Ma no, è BSX. Asso, questo mio non è PSX, quello di Palmeglio era PSX. Sa, guarda come sto facendo adesso? Bomba. Questo è l'ala 68S. Ovvero, ma si vedeva. Dica, buonasera, come scusa, che non ho salutato. Buonasera, adesso prima c'avevo il Galaxy, adesso il 68, la cambia? È la versione più bella quella là, la verità, però anche il 68 è bello. Cos'è? È nuovo, è proprio lindo. È molto migliore, secondo me. Dai, stiamo ascoltando così, ghiacciando in macchina. Stavo dicendo, Antonio, non esiste il 68 DSX. Sarà parte. Io non l'ho mai visto. Gamma. Sul catalogo qua, allora lo piglio. Buonasera, Massimiliano. Sero, chi è? Chi è? Leoncino sono, ciao Massimiliano Bulldozer. Oh, ciao Leoncino, buonasera. Vabbè, sto bene. Positivo, vai, ho la speranza che ti ascolti. A voi che cazzo ti ascolto, che ti ascolto. Anzi, mi sta arrivando, adesso sono sotto casa. E poi io sotto dove abiti? Io abito alla fine della Valletta, Massimilia. No, non sono lì. Ciao, come sta arrivando 9:30 quasi. Un attimino di impianto, un secondino solo. Allora, riprendi Antonello. Ehi, guarda adesso Leonci, a vedere se cambia come modulazione questo. Faccio se cambia, adesso te lo metto, la segnale 5, segnale, la radio 5, segnale tra i 6 e 7, dai. E in questo momento guarda, cambia qualcosa così? Guarda un po'. Sì, adesso si è basso, più basso, si è un bel calato. Ale, come prima, dai. Che ho toccato il micichino. No, già va bene, funziona bene, dai. Comunque come modulazione cambia, sì, di cosa rimane più chiara o meno comprensibile questa? Ma questa è molto più chiara, è come segnale, come tutto, è molto più chiara. E già cambia sempre, l'apparato c'ha la sua particolarità, dai. E capa, avanti, popoli. Due volte meglio, secondo me. Col microfono suo, sei? Allora, quello originale, non li ho roba amplificata o microfoni da tavolo, mi sarebbe piaciuto, ma... Piano piano, dai, un bel microfono da tavolo, che ce ne sono belli da Fusaro, il più caro che costa, dai, 60 euro viene, amplificato, con l'indicatore, un bel carino, avevo voluto quello, ma piano piano, vediamo un po' spicciolo a spicciolo di conservarli e prenderlo, no, c'è il suo originale. Va bene, proprio. Mi piace, se vuoi un microfono applicato guai. Ho ripreso, ragazzi, la buonasera. E già, ma sono già. Ma gara, cara, gara. Beh, ma sono già. Tutto a posto, sì. Trabacco, va bene, sì. Positivo, 5:30 e sono alla sveglia per andare di nuovo. Cappa. Ma dove sì, sempre zona. Quella zona là, che mi avevi detto una volta, zona di Olmedo. Io sempre lì. Cappa. Ma io una cosa, Massimiliano. Ma lì cosa stanno facendo? La strada provinciale per direttissima per Sassari, no? Io sono facendo, proseguo della 291, della 4 corsia, capito? Stiamo facendo la parte nuova, che sbocca nel mese di Uri. Scappa, va bene, allora. No, era per, giusto per sapere, così. Vabbè, dai, riprendete, dai. Ragazzi, avanti, come si chiama Antonello? Antonio, poi non lo ricordo. Antonello. Ehi, dimmi! Qual è cioè, Massimiliano Bulldozer? E avanti con la buonasera! Massimiliano. Ma se non mi sento, no? No, già ti sento, dove sei? Inizio di via Pasqua, del rotatorio. No, no, no, già stai arrivando bene, abbassando un po' il segnale però già. Già ti sento bene, lì arrivando sto tranquillo, sì. Sì, sì, positivo, positivo. Allora, ti conto che sono le mezze palate, sono anche da 90 centimetri. No, no, no, vai tranquillo, sto aumentando, Santiago 7, Radio 5. Ma tu, a te? Capo, guarda quando scala. Esatto. Su quanto ti arrivo io lì, ma quasi guarda a fondo scala. E qui mi arrivi a fondo scala, senza quasi. E quasi arrivi da fondo scala, proprio. Ma senti, noi proprio ieri abbiamo aperto le 5.50 di coso, di Gavino. Ma se non usciva, usciva massissimo di andare, ce l'aveva, le 10 chiuso. Come le 10 chiuso? Non deve succedere quello. E lui non l'ha mai toccato, capito? Quel baracchino, se sono mettato in faccia e basta. Michigea, Maletta. E io, Michigea, Maletta, e gli abbiamo aperto tutta la LC in casa, adesso pompa, adesso va bene. Ma no, questo non l'ho mai toccato, il mio. Cosa? Il baracchino. Questo. Il gemello di quello lì. Dico, ma la LC non gliel'ho mai aperta. Hai toccato la LC. Chi ci avrà detto che ti ho sarrato? No, no, mai, mai, mai, mai proprio. Quello lì è uguale, va bene, sì. Adesso è tutta un'altra cosa, cazzo, poi lui con la voce fina che c'ha tu, mi sembra che adesso c'è benissimo. No, questo qua è il mio, va bene. Sì, sì, sì, sì, il tuo va benissimo. Non ti ho mai toccato, ma forse sarà il modello vestito dopo, già potente. Allora, che luci? Ci sono quasi dormito. Sicuramente. Adesso per la macchina abbiamo preso la Fayette Zeus. Fayette? Zeus. Ma quello è morato, però mi sa, bravo. Sta canali? Tanta. 40 canali normali. Pagata. E io va bene, voglia. Sono qua a casa, bello. Che tiro? L'87 non c'è più. Che c'è? C'era sempre quella in macchina, mi ricordo. No, no, è c'è a casa. Tutta a casa. Certo. Non siamo a lasciarlo in macchina. E quello è un peccato, coglio. Chioppa, ma non va detto tutto il conto. No, già. Sì. Ho tolto, Sempre meglio, Otto, io lo stesso quando sono in macchina che lo lascio in macchina, lo coppo. Chioppa, chioppa. Antonello! Eia, io stavo... minchia di scena! Stavo... ho attaccato le 2.1 all'apparato e stavo provando un po' la modulazione, però ho fatto strano che si sente nelle casse qua. Cosa sono queste 2.1? Quelle che usi per fare l'effetto cinema. Un sub e due casse, da destra e sinistra. E sicuramente entro nel segnale dell'amplificazione mi sento nelle mie colonnine. Sì, ma stai attento perché l'impedenza non dovrebbe essere più di coso, di quel 4 ohm. Se no rischia che poi c'è un baracchino, sai. Dici? E allora dico. Cosa? Li fischia l'impianto e basta. Si fischia perché non è schermato. Sento io, capito? Nelle casse. Ma perché gli entra l'amplificatore? Sicuramente. Vabbè, tanto io sto parlando dell'impedenza, non del fischio. No, lui non sta parlando dell'impedenza, ma lui sta parlando che gli senza rallentare i ghiacci. Ma è cosa che io ho già avuto, ma adesso non ce l'ho più neanche io questa cosa, perché l'ho risolto. Hai capito, Massimo? Io ho buttato in tipo l'impianto, ma non ne tengo più. Ma io ti ho detto un'altra cosa, io ti ho detto che ti stai attento all'impedenza di quelle 2 più 1 che ti facciamo a duetto. Devi essere attento all'impedenza, perché l'impedenza non deve essere più di 4 ohm per essere le casse lì. Io non ho detto, ce n'è anche da 8. Io non lo so qual è la verità. Sta fischiandomi, minchia se fischia. Ecco, e devo guardare qua l'amplificazione a vedere quanto posso portare, quello già è vero, e anche quello lì bisogna guardare. Chiappa, ma ho visto questa ruta. Da te tu quando schiacci la pulsante entra nelle casse, perché c'è un motivo, io lo so il motivo, perché... Perché se tu vuoi che non succeda più, prendi i soldini, un impianto serio, e non intendi più. Vabbè, signori, io vago. Ma buonanotte a tutti quanti. Ciao, Pomolina, a tutti. Ciao, Antonello, ciao, Massimiliano, un buon 144, un buon trabocco per domani, dai. Ciao, ciao, corretti per me. Ciao, Leoci, dai, si mi sta ascoltando, dai. Anche io ne approfitto, dai, e così chiudiamo le trasmissioni, dai. Buonanotte a tutti, ciao Antonio, Santorello, Leocino, a tutti gli ascoltatori, dai, vi saluto. E buonanotte a tutti quanti, dai. Ma poi mi sa che anche noi tocca chiudere alla fine, anch'io domani, dai, anche se non vado a lavorare. Mi alzo presto ugualmente, che devo fare le commissioni per caso e ne approfitto, dai, ci sentiamo nel caso domani, allora. Ciao, ciao, ma... Ciao Massimiliano, c'è anche a te Giuseppe. Ciao, ciao, buonanotte a tutti quanti, dai. Ciao, ciao. A domani, mi raccomando. Sorello. Ehi, narrami tu, tu. Ma che 2 più 1 c'ha? Non t'ho capito, scusami. 2 più 1 c'hai. Delle creative. Sì, sono così, sono. No, queste diciamo che le puoi usare per il computer e anche per il televisore, capito? E ti stavo dicendo, io ti faccio vedere qua che accendo il mio, prima mi succedeva, adesso non mi succede più, accendo il mio non succede niente. Ma alla fine cosa gli hai messo? Niente, ho speso un bel po' di soldi, c'è un impianto schermato e tutto. Ah, ecco, alla fine è quello, sì, si schermi già, ti risolve la situazione, quello sì. No, ci ho provato così a vedere, ma non ne vale la pena, no. Se voglio al massimo mi becco una colonnina di quelle così normali, e per averla esterna e via. Cappa. No, è proprio entrare perché è amplificato, capito? Non è sino schermato. Entra, per esempio il mio, non entra. Non entra assolutamente perché roba, cioè, è seria, me, capito? Sì, già ti ho capito com'è. Grazie, tu non so se conosci la voce, hai tutto. Due soldi ci voglio, anche io avrei voluto le pose, porca miseria. Chiappa, mai compreso tutto, hai capito? Belle sono. Fatto sta che mio fratello su internet ha trovato, non so se lo conoscevi, questo programma, no? Tu c'hai il computer, ti colleghi a internet, e c'è questo programma, diciamo che il tuo computer si trasforma da CB e comunichi con Francia, Spagna, America, California. L'hai mai visto questa scena qua? Ma lo so, me l'hanno detto. Lo stavamo provando, ed ero in America. Tramite internet, solo il fatto sta che ho provato a modulare, però non sono riuscito lì a rintracciarmi. Bisogna vedere in quale banda viaggia questa storia. Non ho un'idea, guarda, sinceramente non ne ho un'idea ancora. Una bella scena è lo stesso. Ma non c'è che ti sento veramente bene. Dici? tipo. Guarda, ripeto, c'è un'antenna di quelle così, un palo lungo e boom, il punto è basso. Sicuramente sarà una zona abbastanza positiva. No, da confronto a un altro apparato. Ma eppure io mi sono sentito la verità col Galaxy e non è male, rimane tranquilla come modulazione, pulita. Però questo del 68 non mi sono mai sentito la verità. Ma no, è molto migliore nel Galaxy. Fidati. Eppure se è un semplice baracconti e niente di più, mi penso che ce l'hai presente come il modello. Ma non c'entra niente, già lo conosco, ne ho una anche a casa. Allora, il modulatore del 48 del 68 è diverso da tutti gli altri, sono molto aggressivi. Quello sì, ho visto un catalogo, ma quel MIDI 8001 omologato è. È molto bello, veramente, lo vedo un baracchino molto completo, diciamo di tutto, anche esteticamente va bene, non è male, poi se uno è abituato ad avere i Midland, perché c'è anche l'Ara 44, il mio primo baracchino, il mio primo baracchino che avevo comprato nel 93, che ce l'ho in macchina, funziona sempre bene, la verità. Bisogna vedere quanto può costare un apparato del genere, molto verrà secondo te l'8001. Ma non ne ho un'idea, la verità. Lo prendi pure se verrà intorno ai 200 euro. Un 200 euro? Penso, No, perché veramente è bellino. Nel caso domani se la faccio una ricerca su internet a vedere quanto potrebbe venire a costare. Ma con quello Smith quanto mi copre? Con questo Smith qua? E fa un passaggio, qui un po' cambia, Santiago di 7 è una radio di 3,5. Qua non è più giusto forse, no? Qui vedi, c'è un'altra modulazione, adesso tu ti hai aggiunto anche l'eco, sì? Tipo è l'eco. Boh, qui stranamente lo sento di più. Comunque qui come segnale sei molto molto più alto e anche lì tramite l'apparato ti sento più forte. Anche in ricezione c'è un abisso, cioè. Boh, lo vedo più completo quell'altro, dai. Tutto io, no, ma in Mitra già hanno fatto sempre buoni apparati, secondo me. Io mi sono trovato sempre bene. Ne ho visto tanti apparati, però esteticamente mi piacciono più questi. I Midran sono li vedo molto più rifiniti, dai. Ma te l'ho detto, cioè modulano bene, modulano. Solo che pigliano i colpi. Tutto qua. E in che senso colpi? I battimenti e tutte cose. Ah, molti disturbi intendi dire? E gente che c'è vicino si sblattera. Sì, quello già è vero, c'hanno questa piccola particolarità, già è vero, però per il resto dai già la fungono bene, vai tranquillo. E poi anche il colore, sembra più una cosa militare, anche se usano sempre questo verde particolare, anche l'estetica, i pomelli, dai, già è carino come apparato. No, modula un po' bene, meglio di quello là, no, con modulazione c'è nulla da dire. Antone, dai, un talora, ti saluto, ci sentiamo tutte le cose. E ti auguro buonanotte, dai, ci sentiamo domani allora. Ciao Antone, dai, ha fatto piacere. Altrettanto, dai, almeno un po' già ti sei sfogato, dai, più tranquillo sei adesso. Io adesso sempre tranquillo. È meglio così allora, dai. Sognati una bella biondona e divertiti. Ti viaghi, dello? Sempre. Ok, dai, buonanotte. Ehi, ciao, buonanotte. Ciao.